C'è qualcuno qua? Ma c'è qualcuno? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno all'ascolto. C'è qualcuno sul 10? Ok. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Vabbè, Natali. Oh, ciao Luca. Mario 3. E tundu. Cosa? E tundu. Grazie. Una pausa mi si fa vedere in Tucano. Perché ero in Toscana ieri. Ah, pagizzo. E tundu. Tutto Tucano, sì. Lo sta pesando. Allora, tutto con il gioco. Saluti la Concetta. E ricambia. Prego un poco bruciata rimane, la fanguarda. E come si dice bruciata? Brusoli, Natale. Maria che non vede, ma vera, ma laggiù. Ma il numero di Fabio Mazza ce l'hai tu per caso? Sì, che ce l'ho. Lo vuoi? Mandalo via WhatsApp se lo devo chiamare. Devi venire e un pugno, però ancora non si vede. Ma che cosa? Ah, ma poi ci si decode una parabola. Lo sai, mi sacchiano le antenne, i passaggi. Io già gli ho fatto le fotografie stamattina presto. Come che al suo posto, ho messo l'ora e tutto, e vediamo un po' come si attrivi in casa sta un'altra capiscuri, arriva Guiu. Se non li vedo io non conto, ma se li vedo io li chiamo i carabinieri. mandato. Sì, grazie. Aspetta, ma. Occupato e Pompogno non risponde. Cosa? Ho detto quello è. Lo so. Attenzione canale 10, Breccoso. Ora attenzione canale 10, la città di Sassari Nord di Sardegna chiama. Nuda rivolto. Oh! Bene, va benissimo. Hola, hola. Yeah, avanti.